fatto. Ok, fraziono il tempo ogni respiro, ogni sospiro d'aria tiene in sé quell'ansia che da troppo non confido. Soggetto eventi predecisi del destino, predecisi senti quando dà tutta una vita, lui ti segue da vicino, lui e ci so, mi tiene sotto tiro come un cecchino, e cecchino riesce a spostarsi dal suo mereno. Penso, serene tempi nell'alba di nuovi giorni, e che ogni brutto momento sia in mezzo perché è il tramonto dei propri. Per me la notte resta uno sfondo di porti, ogni sua stella fa da serrature a sogni celestiali. Se non parlo di certi fatti tutore perché per me sono simili a segreti, non puoi farne parola. E se carta canta, ecco i miei testi, lascio farlo loro. Io resto zitto e farò tanto perché ogni silenzio è d'oro. Quindi, non scherzare col destino, non ha buoni piedi se vuole giocartelo sto brutto tiro. Hey, look you in me, siamo stati schiavi di disso stato squalido, ma in fondo non mi aspetto un sorriso sincero. Che furia di sentirmi avanti, mi parlano dietro qua, bersagli di un destino che passa e per questo posiziona le sue frecce in quest'arco di tempo. Io destinatario destinato un obiettivo, e con la destinazione in tutto è presente il mio destino. Non sai mai quando arriva e se il destino è già stato scritto, Dio il mio l'ha scritto in rima. E chi può governarlo non è certo bravo quanto chi può sovrastarlo, ma chi può farlo se non hanno i mezzi? Pochi ascolti, troppi doppi volti come Gemini, e per gli inediti restate fuori, lascia il destino i destinati ad essere i migliori. Look you.